attenzione, canale 10, c'è qualcuno. Facendo una carrellata, c'è gente in FM, c'è gente in banda laterale, però tutti tedeschi, francesi, spagnoli, cioè propagazione italiana purtroppo non ce n'è nemmeno oggi. Pazienza. E infatti io ho acceso oggi questo qui che lo stavo provando a vedere come ti arrivo lì. Benissimo, qual è? Altro. Ah, ok. Io sto utilizzando il McKinley con il microfono KPO. Io invece sto utilizzando questo per no, così almeno lo faccio funzionare, anche questo era sempre spento. Ciao Anto, buona serata allora. E buona serata anche a te. Ciao Antonio. Ciao Natale. Ma è pure qualche cosa che non mi convince in ovvio. Ma col cavo nuovo Anto, mi pare che avessi detto ieri che ti dava l'impressione, ti segnava più stazionari rispetto al cavo vecchio, giusto? Eh sì. E magari il tipo di cavo diverso, cos'è cambiato il tipo di cavo, che ne so, passando dal 58 alla Camille oppure al 213? Ho messo l'RG8, ho messo quello grosso, un vettoso. Però le stazionarie sono aumentate, ma dall'altro momento, però vado a guardare, sono aumentate anche il watt. Anche il watt, e magari e la lunghezza è uguale del metraggio, se no Natalino cosa può essere? 6 metri sono uguali, il fattore di velocità è diverso, boh, che influisce in quell'installazione, boh. Io può darsi, Marco. Ma cosa potrebbe essere che il fattore di velocità è diverso, no? Cosa potrebbe essere di diverso? E se le saldature sono fatte bene, il tipo di cavo diverso non dovrebbe influire, ma quanto c'hai di stazionaria e con quanti watt si può dire? Ma dovrei misurarlo con lo smetto che c'ho a casa, perché non è che mi fido molto di questo. Ho una decina di watt, 12 watt, dai. C'ho quasi a 1,5 di stazionaria. però io mi accorgo che prima andava, infatti erano giusti, cioè erano, adesso sono aumentati. Com'è possibile? Guarda, ne avevamo accennato ieri con chi? Con Natalino o con chi era, che praticamente in base all'antenna che metti, che sia veicolare, che sia antenna base, ti possono cambiare i watt quando vuoi leggerli col wattmetro. Ma lì è un discorso difficile, io non c'entra forse la resistività, antenna resistiva, antenna capacitiva, io non ne so niente. Natalino lo deve sapere che sta studiando, Natalino. Non ci siamo ancora arrivati a quello, non mi ricordo un tubo. Io gli ho detto di fare un simmetrizzatore. Metti quella una spira solo che hai fatto, che ti ha abbassato le stazionarie, sì, ma l'ho provato dal coso, dall'apparecchio là, non fa proprio nulla. Dovrei farlo col capo che fa l'antenna, allora sì che potrebbe cambiare. Ma io sento questo fischietto per un istante quando premo, lo sentite voi? È un bipperioro, Una specie di bip. I segnali sono più alti, Riesco a riceverli meglio. Cioè al limite se non ti viene male scendere l'antenna potresti ritoccargli appena la bobina, gli sposti quel morsettino, quei pochi centimetri o sinistra a destra, tanto da raggiungere 1,1 così dai. Ci sto pensando e mi sa che gli sposto lo stubo, è proprio, è che l'avevo tutto sigillato. Dovrei riabbassare l'antenna, provare a togliere quel cavo di vulcanizzante che ci ho messo, lo stub, devo regolare lo stub piano piano, forse che si abbassi. Si abbassa sì, evidentemente adesso per quel cavo la taratura. Evidentemente con questo cavo ci vuole un'altra taratura. È diversa, magari c'è anche la misura diversa. Attenzione, adesso dovresti ritarare l'antenna, perché hai spiato tutto praticamente. Ferma tutto, Natali, stai sparendo, a tratti ti scompare il segnale, ti si abbassa a zero. Occhio alle connessioni, che sennò quelle radio sono delicate. Anto, anche da te l'ha fatto e dipende da me. No, secondo me è proprio come ha mollato lui. No, no, Natali, se ne scende a zero, a tratti, occhio che non abbia falsi contatti sul centrale. Proprio sparisci a zero, Confermo. Lui è Gianni. Buonasera a tutti. Mi ha segnato che vai, no, qui con un cazzo di boomera minoretta a 2 metri. C'è un segnalone qua adesso, Sì, Marco, confermo la cosa che hai sottolineato, dai. Sembrava che non premesse bene il PTT, invece vai, io non stavo guardando lo strumento, quindi confermo, ciao a tutti comunque. Ciao già, no, ho messo lo squelciagero per vedere se lo sento di fondo, tipo centrale mezzo staccato. E quando cominciano così i cavi sono rotto le balle, poi con questi PL balordi, ma non solo i PL, a me sono capitate banane rosso e nere, quelle da infilare nell'alimentatore, che poi come fai a tirare la banana dall'alimentatore ti rimane in mano l'isolatore in plastica, si divide in due il pirolino di metallo, capito? Porcherie, ciò fai che oserei dire. Sì, vabbè, ma guarda che approccio, cioè pirulino di metallo unico, no? Quello con le spaccature in punta, no? A croce. Andava bene, no? L'hanno progettato per rompersi, ora è una mente diabolica, cioè, sono i cinesimi. Giulia. Natalino sempre già mandi in radio, bobo. E oppure, allora, KPO su McKinley, come va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benissimo. Benissimo, adesso non mi ricordo qual era la coppiata vincente, forse era il 3009, che sparava a velo. Sì, il 3009 non si batte, è esattamente quello col trimmer aperto, quello non si batte. sai dove non l'ho provato? Sul 5005 alias 6009, perché dovrei staccare il cavettino della ricezione, lo devo disaldare, perché sul pin 4 mi arriva tensione e se no brucio tutto, capito? Ho capito. Avanti Antonio. Reia K. Comunque provo a fare quella cosa lì, questa settimana è una giugana, ma non bene così, ti hanno tutte di nuca, no, non li fa niente all'apparecchio, tanto è più su di 1,5, cioè più giù di 1,5, quindi non li fa un cazzo. Questa settimana prendo, ne stacco il coso e trovo lo sub e provo a girarlo, sicuramente gli dà molta più corrente questo qua e magari gli fanno spostare stazionare, capito? Adesso vorrei mangiare il cervello. Natalino, hai toccato qualcosa? Ha bruciato tutto. E vai a mangiare la moglie. Hai visto che c'è più. No, ma a parte gli scherzi, hai trovato qual è il problema? È il PTT o è proprio la qualche spezzone? Uno spezzone che deve essere andato a fanculo. Adesso provo a cambiarlo. Però Natalì, ricordati, se non hai stazionarie, come ti ha detto il buon Claudio, metti l'antenna diretta, non mettere accoratori manuali, non mettere mille strumenti, metti l'antenna diretta alla radio. Oh, bene, sono andato già. Di lusso? Sì, perché alla fine tra strumenti, poi mi tira giù i segnali anche ricezione, se metto già il wattmetro, vedi, se mettevo l'accordatore e andavo a accordare, che poi cosa dovevo accordare, ma era giusto per vederlo, no? Ti mangiava quei dB in ricezione e in trasmissione. Capito, ogni cosa che interponi tra baracchino e antenna contribuisce giustamente a dare una perdita anche minima, però poi allo smitter te ne accorgi e come? Comunque qua è incrementato parecchio Marco. Però contanto che adesso sono credo 8 watt, della para 8-10, adesso non fai che siano 8 dai. Mentre gli altri giorni, ieri stavo uscendo con 3 watt, se vuoi rimetto il baracchino di ieri un attimino, tanto mi attacco il PL e ti faccio vedere i watt. Ho capito, come arrivo lì? Allora, questo smitter è secco, 9, perché è tarato a 100 microvolt il Santiago 9. E di solito sei 9,5, anche 9,10 col 3009, capito? Prova. Però il 3009 non ce l'ho disponibile adesso. Ti posso attaccare quello di ieri per farti vedere il minimo segnale. Prova. Chi è che vuole entrare? Aspetta un attimo. Aspetta da Alessandro la sua ricostruzione. Allora. Il dato è che ci sono due effetti di una famiglia. Guarda un po' se me lo fa adesso. No. Perché volevo usare questo io, però c'era lo spezzone che era andato in una mala. Cacchio, devo stare attento, qua se sbaglio mai che brucio tutto. Antonio, vieni avanti. Vieni avanti, dai. Fammi un fischio. Hola. No, già è 9. Allora, i President arrivi 9. Tutte e due i President arrivi 9. Questi sono 3 watt modulati, guarda, fischiano sono 3 watt. Se non sono 2 watt e mezzo miseri, reali. No, qua c'è 9,25. Un po' generoso mi sembra però, No, non è generoso nulla, no. Sono io che non ho 4. Qua. Adesso aumento. Cioè adesso c'è la manetta, com'è? Prova? 1,3 prova. Riesci a fischiare un po', 2-3 secondi? Allora diciamo che è un 9,5 pieno. Aspetta. Telefono un attimo. Vai Gianni. Eia. Non so cosa hai fatto tanto, ma se hai attaccato a qualcosa ti sei abbassato appena appena la radio. Troppo. Così già va bene. Basta gai. Così va bene. Eia. Perché ho aumentato, ma sul regolatore, ho capito. Eia, Natalino, hai sistemato? Eia, se vi ho detto a vedere se va bene adesso. Caspittina, caspiccia, vi dici sì. Ok. Beh, io non riesco a comprendere una cosa. Ma cosa è tu, con un'antenna minorita? Cioè, te lo giuro, mi sto facendo balle. Arriva molto più forte di te, Natali. Perché io sono a minimo e la sua è direttiva l'antenna, la mia no. Ecco il motivo. Se aumento il watt arrivo più forte di lui, ma io voglio andare al minimo, cosa me ne sbatte della potenza? Risolto, Natali. Non so quanto è lui. Come? Marco. Risolto, Natali. Eia che ho risolto. Se te lo sto dicendo che c'era l'ospezione in Oramara e l'ho sostituito. È pericoloso perché, caspita, cioè passare da fondoscala a zero vuol dire che il centrale è quello, cioè rischi di bruciare la radio, manco ti rabbizzi. E poi sai com'è, un peccato, sarebbe un peccato. Lo so, io volevo usare questo l'apparecchio, capito? Perché era sempre spento questo qui. No, usa, perché poi quelle vanno fatte lavorare tutti i baracchini, capito? Vanno sempre accesi. Io ne so qualcosa, io a lasciarli spenti. Questo è un altro, Natali. Eia, quello è l'altro che ti ho fatto vedere. Ah, quello grigio? No, quello scuro è questo. Vabbè, non sto più capendo niente. Vabbè, l'altro lo riconosce perché c'è il bifi. Cazzo. Oh, yeah. Sta diventando un capitalista questo Natalino. Capitalista da dito. Ma l'altro giorno, poveraccio, c'era Elon Musk al semaforo chiedendo monete e mi ha fatto appena, gli ho dato tirato un euro. No, Elon Musk credo che sia l'uomo più ricco del mondo attualmente. È quello delle missioni spaziali in proprio, mi. Gianni, vero, ho visto delle statistiche, dice che questo è una potenza, non si sa da dove di. È un maggiordomo lui, scendi letto in confronto ai Rothschild. Lui diciamo fa da galoppino, dai, piscino bandera. Ha voglia, è scendiletto, come si dice. Sì, vabbè, però sì, Anto, già, comunque Elon Musk già è ricco sfondato, proprio sfondato, infatti. Ogni tanto ne esco. Con l'altro giorno, quello battuto che facevo, ho visto lettera Lamborghini, poveraccia, scalza, con i vestiti stracciati, al semaforo chiedendo soldi, sì. E avrai di nari sa niente. Bonaretta pure mille Lamborghini, mamma mia, dice che è bisessuale, immaginati, a buttarsi in mezzo lì, ciu. Guarda, vorrei solo guardare io, quando vuoi con qualche amichetta sua, intima. E allora, lo mette mano Antonio, lo fa nero quella lì. Abbiamo un cantato. Io dico se ti muove mano, chissà, domani non ti ne bisi, sei tutta a durare. Abbiamo un cantato pistolero. Bandolero. Marco, cosa ne pensi tu? Cosa gli fa Antonio a quella? Io credo che la signora Elettra sia molto esigente e mi sa che se andiamo tutti in greffa non riusciamo a soddisfarla. Se ci vado io da solo, vedrai cosa gli faccio io. Poi Natali qua ti mangia vivo. Non ti credere, no, io ho una certa esperienza. Cos'è? Pistolino? La canzone è cantaretta. Ah, quella è? Sì. Mi chiami e non rispondo. E aveva due lo pistolero. Io gli ero la picchini. KK. Una curiosità, facciamo un sondaggio. Come siete a QRM, QRN, propagazione? Io quasi sul 3. Diciamo, come si dice? Bailame, slash propagazione slash QRM. Attreccelo io con questo. Questo baracchino è... Cos'è, a valvole? Come scalda? Per i minuti segna per i ciabotto, pure troppo. Appena scalda si normalizza. Ma perché gli ho abbassato l'RFGain? Qua c'è un trucchetto, no? Questi apparecchi sono morosi, però tu l'RFGain glielo abbassi di un po', di un valore prefissato, cioè di un valore che scegli tu, ti attenua solo il QRM e il QRN senza alterare i segnali delle persone che modulano. È un trucchetto che hanno scoperto prima io e poi hanno copiato e l'hanno messo sui forum. Ho notato anch'io. Sotto una certa soglia, diciamo che tra virgolette non interviene del tutto, poi chiaramente superando quel 50-60% va a tagliare. Sì, qua è una cosa molto marcata, cioè qua è a scatti l'RFGain, tu lo tieni a 10 e becchi tutto il ciabotto, soprattutto proprio rumorosità di candele, sai, proprio roba elettrica. Tu lo abbassi, guardi i segnali, no? Anche quelli bassi di gente che modula. Lo abbassi 9, 8, 7, 6 fino a 5, non ti abbassa i segnali dei modulanti, ma ti elimina solo il QRM elettrico. Vabbè, infatti lo tengo sempre a metà, però non vorrei che scaldando mi abbassasse troppo anche gli altri segnali di fondo. Farò delle prove. Oggi giornata né caldo né carne né pesce, un po' sole, un po' sembra che sul punto di piovere, poi sole, poi sul punto di piovere. E insomma la roba lo stai già nello stenditoio pensile che risulta all'interno, incassato dentro il terrazzino. E non fai male. Questo lo riconosci? Gianni. Ega. Questo è il 4-4, giusto? Yes. E l'altro era l'altro. Io che sai. Fatica di vedere quel video. Forse mi avevi mandato delle foto tempo fa, buona me la metto. Dovrebbe essere quello. E adesso sto parlando con questo. Sto parlando con l'altro. Beh, questo è questo, questo è particolare. Ma a me piace di più l'altro. C'è una bella bestiolina anche l'altro, Molto carino anche l'aspetto. Ma che io non ami quel genere di coso, però. Oi oi. Io sto per... che ora è? Mamma mia. Parlate voi, dai, non ho voglia, mi sta venendo... Allora, voglio fare un test della batteria, se è vero che sta piano piano consumando. Adesso nell'M95 ho il cursore a metà. Quindi questo è un passaggio. Il prossimo lo faccio con il cursore tutto aperto e mi dite se cambia qualcosa. Ok. Questo è il secondo passaggio, ecco, cursore a manilla, tutta manetta, c'è qualche differenza riscontrabile? Ma cos'è sto rumore? Io qua sento un rumorino, di mio. Ah, c'è un ricevitore poggiato in terra, insomma, Maria. Oh, già, a me sembra più forte. Bene, Mela. Natalino, cosa ti sembra? Stavo sbagliando il microfono, anche a me sembra più forte. Così è... Così tutta manetta, il cursore del microfono, compreso il mic gain della radio. Adesso è così, è a metà. Sì, sì, quando la manetta senti anche il rumore dell'aria, il soffietto dell'aria. E allora la batteria già è buona, dai. Natalino non dice niente, no? Non ti ha evocato nulla. Molto ermetico. Come non dice niente? No, niente, Natalino. Non pervenuta, dai. Mi sovramodellando la televisione, mi. Antonio c'è ancora? Non sento il bipi. Forse sta facendo prove o provando altri spinotti. Magari sta pure tirando l'antenna, intanto c'è luce ancora. Allora, vediamo, Natalino, segue il messaggio. Sta accendendo il computer. Hola. Adesso a Natalino gli sovviene. No, è stato un personaggio di tanti anni fa. Gianni non lo conosce forse. Ah boh, non ne ho idea. Marco, quando hai preso il microfono, questo microfono si è preso anche altra roba. Vabbè, il microfono costa 39 e rotti. Disposizione, se lo prendi la città loro, quanto ti fanno pagare? Aspetta che guardo le email. No, 35 il microfono, 39 era la versione con 5 pin, che è la più rara, con 6 pin 37, e il mio da 4 pin, che ricordi, era 35. Aspetta che guardo le email. Natalì, poi ti è venuto in mente, sì? Beh, io vi saluto, ci sentiamo dopo più tardi. Sì, Antonio, è strana le serate. Poi Luca, da quando ha tolto il baracchino, anche da casa della il greco L, non lo sento quasi più. Non, prima almeno entrava anche di giorno e c'era più gente, capito? Adesso lo sento di notte, se ascolto pure, se no nemmeno di notte lo sento. Non lo sento mai quasi. Ciao Antonio, dai, buona serata. La risposta te l'ho data sul messaggio. Strategia. Ciao Antonio, ciao. Sì, Natali, sì. Mi ricordo. Oia. Buon'anima. Questo con lei. Morto era. Dalla licenza avvocatina. Presumo di sì, sono passati 40 anni. Da 24 settembre scorso. Luca, una serata abbastanza moscia in radio, non c'è molto movimento, anzi eravamo quattro gatti, adesso siamo tre gatti. Una piccola colonia. C'è uno sotto che chiama, non so se sta chiamando a noi, boh. Sì, avanti il confine svizzero qua, nord della Sardegna, Sassa richiama, avanti, sparito. L'ho sentito anch'io quello della Svizzera. Alla fine. Ti stavo dicendo Marco, appena puoi, fammi sapere, perché, cioè, per alzare il microfono, se no, perché loro hanno anche l'account su eBay, capito? Scusate, ero altrove, ma un po' troppo silenzioso mi sembra questo apparecchio, ma... dai ragazzi, non me la sento tanto, oggi non sono uscito né niente, vabbè, la spesa l'avevo fatta. Rimango in bianco, faccio prove così di ascolto perché è ambigua la ricezione di questo apparato. Forse dopo un primo periodo di assestamento lo devo rimettere col referee in alto, o comunque trovare la posizione ottimale, perché mi sembra troppo silenzioso. Gianni, riprendi un Natalino. Ti stavo dicendo Marco, appena puoi, fammi sapere prendendo la roba dal loro sito quanto chiedono per la spedizione. Sì, guardo adesso, un attimo, me ne ero già dimenticato, figurati in che condizioni sto. Oh yeah. No, perché se oltre al microfono hanno anche altro materiale acquistabile, prendo direttamente tutto lì. Ehi, adesso guardo, vediamo se... spero di non averle cancellate, allora. eBay... abbiamo ricevuto il tuo ordine. No, non è eBay, è la Technology Shop, aspetta. Cos'è, un altro microfono stiamo ordinando, buonasera a tutti. Ciao già, lo vogliono tutti adesso. E d'altronde, se tocca bene. Ciao Gianni. Ciao già, e allora? Come va questa radio adesso? Già. No, a me sembra come sempre ovattata. Vabbè, io gli ho fatto quella musica, vuol dire che non è così. La lascio così, che mi arriva l'altro microfono, ho fatto, ma io mi devo assillare. Gianni, sembra che ci sia praticamente la capsula praticamente girata dentro il microfono, cioè che la parte della membrana si è rivolta verso l'interno piuttosto che l'esterno. Mi dà quella sensazione. Ma non è così, fate conto, l'attacco se l'è all'interno di una cosa di plastica, secondo me è così che la fa diventare un'attacca, all'interno di una plastica bianca, c'ha il cassetto che viene chiusa dentro, è quello lì il problema. Ho capito. Dopo comprendi. Marco, ma tu gliel'hai tolta quella cosa in plastica? Aspetta già che mi chiama mamma, devo staccare in fretta dopo. Vabbè. Che c'è? Non ho sentito chi c'era. Ci sei tu Gianni, poi Marco, poi. E c'era anche Natalino. Antonio mi sembra che sia spostato. No. Natalino, avanti, buonasera. Ciao già, buonasera. Gli ho fatto quel lavoro al microfono che mi ha detto Marco, ma dice che c'è più uguale, che c'è sempre un contatto, poi non so. Aspetta un attimo. Gianni, mi ascolti? Hello. No, a doppio giù stavo dicendo. Ehi, ti ascolto la radio. La radio è buona. La mia come la senti la radio? È buona. Mi dice che sembra chiusa, non so, ho provato a togliermi quella membrana che c'ha davanti. A me mi sembra la voce tua, o è la voce tua, boh, cosa ne so, il microfono, quello originale, quello marcato stare. Ma secondo me va bene. Io ho tolto quella membrana che c'è davanti al microfono, c'è una membrana e l'ho liberata da quella membrana, di modo che potesse uscire bene il suono. E ho capito. Prova, ma lontano dal microfono stai parlando. Guarda, io adesso così sono vicino, così sono lontano. Ma secondo me va bene quel microfono. Vabbè, è interessante che mi sentiate. Ho fatto quella volta che mi ha detto Marco. Allora non è quello. Io mi sono ascoltato poco fa, ma magari quello lì ti dà una cosa falsa, capito? Avevo ascoltato con le cuffie in un'altra radio e stavo uscendo abbastanza forte e bello. Sono qua Gianni, sto guardando un rivenditore su eBay. Stai ordinando anche tu il microfono? No, cioè se c'ha tutto quello che mi interessa preferisco ordinare tutto il materiale da un rivenditore unico piuttosto che fare due o tre ordini diversi, capito? Quindi sto guardando se ha tutto quello che mi serve. Ah, ecco. Sì, ho capito cosa vuoi fare. Ho visto che c'ha l'antenna, c'è il microfono, adesso voglio vedere se c'ha anche una buona offerta riguardo ai cavi, tipo il 58.000, ho visto che hanno messo i pauloni, adesso guardo se c'hanno anche se hanno il cavo che sto cercando. Ehi, è perché non ti prendi l'H1000, scusa? No, per quello che ho va bene anche il 58, quello 1000, quello buono. Oppure l'H100, come me l'ho preso io, l'H100 è buono. Preferirei non il cavo con il centrale rigido, Non è rigido, però questo qui ha la doppia carica, capito? Ma tiene il diametro del 58? Sì. È bene o male come il 58, morbido, non è di quello duro che ti muove gli strumenti qua. No, quello lì a me non piace, quello tipo 213 non mi piace. Troppo grosso e poi come lo attacchi gli spezzi dagli strumenti, te li muove, te li fa girare, no. Vabbè che io adesso ho tutti quanti gli apparecchi, li ho tutti attaccati con gli adesivi, così almeno non si muove. Ho capito. No, sto guardando i prezzi qua del cavo. Vabbè, poi bisogna entrare nello specifico per vedere a quanti metri si riferiscono, perché poi ci sono le bombine da 10, da 20, da 25, da 30, boh. E beh, dipende quanto te ne serve a te di cavo, quanto te ne serve a te. Dovrei fai misurare dall'antenna sino all'apparecchio, perché fa il giro degli angoli della stanza per andare a finire alla radio, capito? Quindi fa un po' di giri. Gianni. Eia. Io Gianni, siamo in due già. Se non sei tu è l'altro. Allora, non mi viene il nome. Tu profe. Sì, confermo. 35 euro, 4 pin. La spedizione, io ho provato a rimetterla nel carrello perché ho compreso più cose, ho speso 10,99, ma erano più cose. Invece se prendi solo quello dal loro sito, certo non conviene comprare, perché è 9,99 la spedizione, capito? 9,99 per la Sardegna con BRT, così si chiama, sì. Ho capito. Adesso aspetta, adesso ti dico quanto lo vendono su eBay, cioè il prezzo in vendita. Allora vediamo un po', qua mi segna KPO microfono patapin patapà 39,20 più 7,99 di spedizione. Sì, è vero, arrivo, ma 7,99 di spedizione, e naturalmente devi specificare, è probabile che se 4 pin te lo facciano pagare meno, oppure gli hanno aumentato un po' il costo del microfono e diminuito la spedizione, siamo pari e patta. Però se devi ordinare altre cose, ti conviene, risparmi sulla spedizione. Un attimo, arrivo subito, riprendete voi. Ho capito, sinceramente, ma sicuramente avranno riequilibrato le cose, perché quel sito lì ho visto che il cavo 58.000 non ce l'ha, mentre Am Radio Shop c'ha l'RG 58, quello 1000, addirittura di colore bianco. Dovrebbe essere anche nautico, se non sbaglio. No, io ho anche l'H100 che rimane grigio. No, non è nero, è grigio. No, questo vetrovattore è proprio bianco. È proprio la matassa, vediamo quanti metri sono. Aspetta che me lo dice. Allora, vediamo un po'. RG48CU, guaina bianca. Cavo classe 25 metri. 23,10 euro più 190 di spedizione. Se non ti serve tutto, magari ti metti d'accordo con qualcuno a cui serve, ve lo dividete come ho fatto io. Magari sai cosa fa, cosa sarebbe conveniente? Una volta che cambi tutto il cavo, prendi qualche PL in più e a questo punto fai non solo la discesa, ma ti fai anche qualche altro piccolo spezzone per collegarci lo strumentino e altre cose, capito? Vabbè, normale, come tutti, io ho fatto la stessa cosa, solo che dopo che ho finito tutti gli spezzoni, ho messo 2, 4, 5, 6, 8 PL, saldati, tutto quanto fatto bene, vado a mettere i PL, non avvisavano, ma te li mangi? Me l'avevi raccontato. Me l'avevi raccontato, sì, da Am Radio Shop hanno anche i PL quelli buoni, capito? Però non c'hanno il microfono che voglio io. Guarda, il microfono buono c'è anche quel Densi, quello che c'è a fianco a quello che stai prendendo tu, da quello che dove l'ha preso Marco. C'è il Densi, che quello lì è molto buono, ce l'aveva a fianco California. Lo so già, però sono due rivenditori diversi, e quindi non dico che è un casino, ma insomma, se riesco a risparmiare qualcosa nella spedizione sarebbe cosa buona e giusta. Vabbè, ma se non lo dicevi prima, magari te l'avrei fatto ordinare anche a te da Natalino, l'avremmo ordinato tutti insieme e la spesa ce l'avremmo divisa. Ehi, no, vabbè, non ti preoccupare, no. Qualche soluzione la troverò. Così la boomerang la metto sull'Uranus, insieme al microfono, al KPO. E l'antenna grande, l'altra antenna la metto sul clone del Pluto, capito? Così c'ho due cose separate, non voglio mettere il commutatore, capisci? Ma ti fa lo spezzone che va da uno all'altro, come ho fatto io. Io li cambio quando voglio, c'ho lo spezzone e li cambio, vuol dire se c'hai strumenti, se metti lo spezzone da uno strumento all'altro, lo strumento al baracchino, non fai altro che staccarlo dal baracchino e metterlo nell'altro. Eia, sì sì sì. Sì, la boomerang la tengo tutti e due, magari, ti ripeto, ogni radio con la sua antenna, non lo preferisco così, dai. Vabbè, ognuno fa ciò che vuole, ma c'è quella possibilità pure, io stavo dando un'idea. Ciao Marco! L'ha chiamata la mamma. È Natalino che fino a fa. Ogni tanto scompare, butta la bombetta ninja e poi scompare. Oramai è eccitato che ci ha messo un'antenna nuova ed è tutto preso. Eia. Adesso sta smanettando con tutte le radio. Non fa bene, io lo stesso le faccio girare ogni tanto, perché sennò poi si rovinano. Ogni tanto bisogna farle scaldare un po'. Nara già. Adesso mi sono perso il filo del discorso. Non ho più rumore, che l'ho sentito da là che mi chiamato. Perché cosa ti ho chiamato? Non lo ricorderebbe più. Cazzo, facciamo il club Alzheimer qua. No, ti ho chiamato, forse ti stavo rilanciando, perché non ti ho sentito un po'. Tutto ok, sì. Sì, sto facendo un po' di badantato, sto facendo. Genitori, ma. E beh, come dico io, d'altronde, lei si è presa cura di me quando ero piccolo e adesso tocca a me. Bene, quindi che ci è rimasto? Natalino, latitante, magari sta saldando, sta facendo, sta. È entrato qualcuno, Nessuno va in Grecia. Siamo solo noi, come diceva qualcuno. Siamo solo noi. Eia, una domanda volevo fare a Natalino, ma forse la sa anche Gianni, mi pare l'abbia presi. I cavi messi ai paoloni necessitano di un PL particolare o gli puoi mettere un PL qualsiasi? Marco, non so risponderti, non lo so, non conosco quel tipo di cavo. No, forse Natalino allora l'ha messo. No, perché avevo letto che alcuni cavi particolari avevano necessità di un certo PL. Dovevi prendere proprio i PL messi a paoloni, non so che cacchio i PL siano. Però quello dico o quello nego. È interessante che non si bidiano in chi dà, perché non ne abita uno, coia. Ho fatto 4-5 spezzoni, tutti quanti li devo tutti risaldare e buttarceli via. E infatti il mese prossimo forse faccio un piccolo ordine, mi piglio un PL in bacchelita a nastro, quelli che mi servono, me ne servono alcuni per RG58, per cavo sottile, da, li voglio in bacchelite, costano poco, se no non riusciamo più, anzi bisognerebbe fare un ordine collettivo. E poi dividersi in base a quanto ne vuole uno o quanto ne vuole l'altro. Io ci sto. Ah, Natalì, tu hai messo i paoloni, hai detto. No, negativo. Il cavo ho messo i paoloni. Ma non ci vuole un PL particolare, no? No, PL normale ho messo. E quindi in bacchelite. Ah, vabbè, allora quello che ho sentito era per cavi speciali, specialissimi, sai, quelli per alte frequenze, credo, necessitavano di PL dedicati. Va bene, riprendete che mi apro un succo di frutta. Fai così. All'ananas, mi, bello succoso. Poi belli come li fanno nelle fabbriche, mi sembrano pucci. Sono conservati quei succo di frutta. E infatti fanno venire poi un bruciore di stomaco che non ti dico. No, quello è perché sono dolce, lo fa anche a me. Quando mangio roba, per dire, tipo biscotti, roba così, che ne mangio troppi, allora lo fa bruciore. Io mi ho mangiato una mela. A detta delle vittime. E io nulla. Oggi sono bravo, stavo cantando fino adesso, quindi mi sono impegnato, là. Non mi è venuta a volere. diceva sì, perché non ho mangiato la minestra. Evidentemente mi ci stava scendendo e mi è venuta fame. Mi ha perivella anche me. Mi si è rotta la perivella. Ci si è rotta. E come la fai l'avviamento? Elettrico. Spin. È disceso la metro. A strappo. Allora, al volo, come fanno tutti, senza sedile. Senza sellino. Ciao Claudio, ben entrato. E poi gli si è rotto anche il cavalletto, la deve appoggiare al muro. Allora, perivella, cavalletta. Brecco, brecco dall'Italia, Nord Italia, Brecco Italy. Avanti Brecco. Roger, se mi stai ascoltando, la città di Bergamo, stazione Archimede, operatore Francesco, avanti, cambio. Caspita Archimede, ciao, buonasera, è la stazione Gianni W. Rum della città di Sassari, Nord Sardegna, avanti. Mi è sembrato di capire Sassari, mi confermi Sassari, Sardegna, Roger? Cappa, confermo. Bene, dai, Santiago 6, 7, una radio di 3, un po' bassina, comunque ti copio, amico, non ho capito la tua sigla, mi puoi ripetere la mia, è Archimede, mi hai perso, il mio nome è Francesco, avanti l'amico di Sassari. Cappa, Archimede, dai, la mia sigla è Doppio Rum, Doppio Rum. Vai Roger, doppio room, perfetto, al 100% questo passaggio sei arrivato molto bene. Sassari, io sono a Bergamo, Bergamo, non so se hai presente, sono a 4 km sud-ovest di Bergamo, riprendi doppio room. Ah, ma ce l'ho presente dove vai. Sì, ti ascolto molto bene, dai, ti ascolto molto bene anche a te. Ti rilancio, qua c'era un corso locale, ti rilancio gli amici. Avanti Marco, e tu fai girare. Io passo. Dai, riprendo io. Ciao Francesco, l'amico Archimede di Bergamo. Qua è la stazione Alfa 1, operatore Natalino, dalla città di Sassari, dai, nord della Sardegna. Avanti ancora a te. Roger Natalino al 100%, e anche l'amico Doppio Ruga è arrivato bene prima, Natalino, non ho capito la sigla, scusa, Alfa 1 l'ho copiato, la città, mi puoi ripetere la città per favore, grazie. Allora, Sassari, come Sierra Alfa, Sierra Alfa, Romeo India. Nella mano, sempre te lo ripeto, Alfa Zulu Zulu Alfa India. No, negativo. Tra l'altro giovedì scorso. Aspetta un attimo, a Carmine e a Annalisa. Allora, Sassari, Sassari. Di denunciare. Allora, Carmine, è entrata qui una signora che sembrava per bene. Sassari, Sardegna, Sassari. No, oggi anche te, ha capito anche te, Sassari al 100%, pensavo che era una città lì vicina, comunque a te, Roger al 100%, dai, riprendi pure il doppio. No, no, io sono qua a Sassari, non sono il locale lì da te. Sono qua collega degli amici di Sassari. Ti ho detto Sassari perché non hai sentito Natalino che te l'ha detto. Buonasera Claudio Sparghiero. Buongiorno Fabiano, 100%, arrivi molto bene anche te qua a Bergamo. Bene, dai, io adesso vi devo salutare, comunque qua il tempo è abbastanza caldo, penso che anche da voi sia abbastanza caldo, ma voi potete fumare, voi fate. Ciao, ciao Francesco, alle prossime. Avanti che tocca. Ciao Francesco, alle prossime. Ciao, e quindi che cosa? Nella stazione Natalina Alfa 1, da Sassari. Scappa, ciao, dai, doppio Ru ti saluta. Buona serata e grazie per l'equazione. Avanti un altro. Avanti un altro. Dov'è lì? Avanti un altro. Ciao Claudio, buonasera. Buonasera. Per quanto vuole giocare lì? Per uno, due, tre. La busta numero uno. Va bene, allora giochiamo. Dottor Roma apre la busta numero uno. Guarda cosa dice. E rilancialo. No, gli ha già andato via l'amico di Bergamo. Da saltato tu come te. E tanto ne entra un altro adesso, mi ciocco. Sì, entra un altro. Quando entra esce già siamo qua. Allora, Però vabbè, finché c'ho l'italiano almeno. Ma quando entrano i trucchi che non ci compri di nulla? Era 10 metri al 28, qua ce l'ho ancora accesa. 28.480.10. Stavo parlando con l'Afghanistan, 5.9.10 arrivava, adesso arrivato con la potenza della radio 5.8.59. Parlava benissimo l'italiano, l'afghanistano. Oh, cioè lui è afghano e parlava l'italiano, caspita, è una lingua internazionale allora, altro che inglese. No, no, no, parlava l'inglese ma capiva molto bene anche l'italiano, non ci sono problemi. Stavo così chiamando, gli ho risposto in verticale, mi ha dato 5859. Ultimo segnale, ultima radio con 920, con le 7920, c'è un bel proprio in 10 metri. A parte chi chiama Sassi? È capo con Pepe Nominativo, la stazione W1 di Sassari che ti supercordializza. Vieni avanti con Nominativo, buonasera. E non è come fa il ciupito. Pompa, pompa. Sto pompa. No. No. C'è un segnalone qua. Che radio è questa? Adesso sto pompando, guarda. E niente poco fa, non si è accorto magari. 9.30, sì. Che radio è questa? Radio Vaticana. Che radio è già? Cobra, Ah, già si intende allora. Ah, il lineare ci è attaccato al Cobra, come fai? Non ne ho attaccato, l'ho attaccato abbassando la... mettendo al minimo. Al minimo quanti batterà, perché ce la fa sopportare il lineare. Cioè ce la fa. Sì, attento, però. Quella radio, al minimo a me mi la va, quella prima potenza me la va più di 20 watt. Stai attento. Non è così. Non è così, diciamo, lo dice a me, con la radio la libro vada io. Secondo me c'è qualcosa che non va, se vuoi a dirtelo. Se vuoi proprio a dirtelo, perché quella radio lo deve dare con la minima potenza a 30 watt, con la massima potenza arriverà ai 100, non 35 watt con la massima potenza. C'è qualcosa che non mi quadra. Che non sia partito il prefinale o che non sia partito qualche resistenza che diventa il finale pilota, e quello c'ha quattro finali, meno una due. Non c'ha niente alla radio, già va bene. Avanti, Marco! Vabbè, se lo dici tu. Ho detto a Massimiliano l'altro giorno, ho detto ora se trovi il video che ti ho mandato io, che io non ce l'ho più. Giro la Gianna e vai quanti fatti da quella radio. Ma sei buffonente. Ti dico ballio. 30 watt con la potenza minima e 80 modulati, 90-95 con la potenza alta, no? Watt 230 in scala 200, quindi lo so, senza contare che il mondo laterale c'è un picco di modulazione allucinante. Vabbè. Se tu dici che è così, va bene così allora. In banda laterale da 100 watt. Quello sì. Banda laterale da 100 watt. 100 watt deve arrivare in AM. In banda laterale ne ha di più. Ti ricordo che quello c'è quattro finali da giudizio. È un 200 watt in banda laterale con la radio. E a me me ne dava 160 modulati, 170. Prima potenza 30 watt, seconda potenza 90 watt in AM. Avanti. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato con la marea. Io sto facendo una cosa però qua, vi ascolto ma non riprendo. Ok, sentiamo dopo. Avanti, c'è anche Natalino, mi pare, avanti Natalino, riprendi. Sono andato a farmi il caffè, dai. Allora, vi ascolto. Fanne due. Basta venire e te lo faccio. Problemi non ne ho, già lo sai. Sì, anche buono. Allora, un saluto a Chiedo Arrugginito che è entrato, dai, poi vediamo, rifacciamo l'appello, vediamo che è rimasto. Io lo stesso sono mezzo in bianco perché stavo controllando dei dati, delle cose online. Per esempio il profeta c'è ancora, qua c'è un ventaccio che vedo volare, tendoni, finestre che sbattono. Gianni, sì. Affermativo, sì, si è alzato un po' di vento, dimmi. Riprendi che c'è Claudio Chiodo da Muros, io devo fare un attimo di bianco, che sto leggendo i dati. Ehi, non ho sentito quando è entrato. Ciao Claudio, Claudio da Muros, Gianni da questa parte, se ci sei vieni avanti. Sì, sì, anche qua un sacco di rumoracci, di propagazione, dai, un sacco di sovramodulazioni che stanno entrando alla grande. Poco fa scavalcato Bergamo, poi è sparito, scavalcato dagli spagnoli. Sì, sì, un po' di ambuloto, dai. Gianni Doppio, avanti. Ciao Mulo, se mi hai sentito, dai. Claudio, ero da un po' che non ti ascoltavo, dai. Ma dai, un controllo Radio Santiago, grazie. Stai dicendo bene di Santiago, ma di radio c'è un po' basso. Probabilmente è dovuto anche alla propagazione, non è colpa tua. E adesso in questo passaggio ho fatto un po' di difficoltà a ascoltarti, c'hai un sacco di segnaloni sotto, però dai, sono riuscito a capirci qualcosa. sì, un bel aburuto c'è, sta salendo un sacco di propagazione. Natalino sta preparando il caffè, Marco si è allontanato, Claudio lo stesso è in ascolto. Ti rilascio il microfono, vai. Metti l'amplificato se ce l'hai, oh Claudio. Dai, buona pesce greca. Comunque non è dovuto alla sensazione, ma è dovuto all'atmosfera di propagazione che c'è adesso. È dovuto a quello che dà fastidio. 5-9 qua, Chiodo, 5-9, qua è buona perché la propagazione da me è meno invasiva. Gianni è molto aperto per il mare ed è più sacrificato per quello. Dai, buona cosa greca, buon proseguimento di serata. Ciao Gianni. Ma Claudio. Anche a me quando non c'è QSB, ma quando non c'è QRM mi arriva con quel segnale, Marco, ma come viene QRM me la passa, capito? Mi passa la radio. Sì, sì, ma stranamente la propagazione qui è più bassa, non so, è ambigua la storia. Poi questo apparato, ho detto tra noi, ogni cosa, ogni volta per trovare l'RF gain, come si aziona, devo pigliare il manuale, per mettere il mic gain lo stesso, devo ricordarmi la prassi, premi questo, poi questo, cazzo. Ma dipende anche magari dalla ricezione dell'antenna, non so, dal DB, l'antenna, capito? Ha più ricezione, meno ricezione. Io qua sento un sacco di amuruti sotto, infatti avevo difficoltà a capire bene quello che diceva, perché si sentivano un sacco di altre modulazioni sotto, dai, come se le stesse portando appresso. Idem per me, capito? Qua succedeva la stessa cosa, però un po' riuscivo a capirlo, non... le parole le capivo, le scandivo.